בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. Amici di Blu Radio Veneto, buonasera a tutti e benvenuti all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto. Si chiama Blu Time Live, questa sera di martedì 23 aprile del 2013, condotta da Flavio Bilato, che sono io, e da chi insieme a me è di consueto al martedì sera, ovvero Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, come avevamo annunciato nel corso delle nostre trasmissioni live, anche in questa serata assolutamente non faremo silenzio, un gioco di parole subito per presentare chi è ospite della nostra trasmissione in questa serata, e quindi presentiamo direttamente un gruppo che si chiama Spacca il Silenzio. Allora, buonasera. Ciao Flavio, ciao Maurizio. Ciao Luigi. Allora salutiamo Luigi, portavoce e leader di Spacca il Silenzio, e salutiamo a distanza anche gli altri due protagonisti che con te Luigi conducono appunto questo viaggio, ecco, diciamo così. Poi capiremo anche perché parliamo di viaggio. Quindi salutiamo anche Feliciano Grella, nonché tuo fratello. Mio fratello, esatto. Che tra l'altro stasera mi manca tantissimo. Solitamente lui mi segue dappertutto, veramente. Ma poi chissà che magari non riusciremo a prenderlo da qualche parte nel mondo per salutarlo. E poi salutiamo ancora Cristiano Delfino, che è batterista anche della band. Quindi diciamo Luigi Grella, voce e chitarra, poi ancora Feliciano Grella, basso, e appunto Cristiano Delfino alla batteria. Insieme formano Spacca il Silenzio. Allora, innanzitutto Luigi, ben arrivato. Grazie. Abbiamo già sentito il tuo accento partenopeo. Sì. Però i chilometri sono qualcosina meno, circa un 700 in meno rispetto. Sì, non sto arrivando da lontanissimo. In realtà adesso vivo a Bologna già da un po' di anni. E tra l'altro sono arrivato in treno. Un viaggio come al solito fatto da vari pensieri. Sai cosa? Che prendo il treno non veramente di consueto. Poi mi sono reso conto che probabilmente raggiungere Padova da Bologna con la macchina diventava costoso. Sai che noi musicisti viviamo questa... ecco, e allora ho detto, vabbè, prendo il treno. Allora, poi volevo dire una cosa così proprio a straccia... In certi momenti ti rendi conto proprio che le ferrovie italiane veramente sono deliranti, cioè dei treni che davvero potrebbero uscire da un film, non so, di spaghetti western, è pazzesco. Ma questo ti potrebbe portare anche, come dire, a scrivere delle altre canzoni. Infatti, questo, allora, il viaggio in generale, il viaggio in treno è di un romanticismo pazzesco, cioè il fatto di trovarsi con a fianco non so chi e riuscire comunque a guardare anche le espressioni delle persone, sentire le volte curiosare nelle discussioni delle genti, oppure vedere il colore dei bagagli che portano, cose che leggono, il computer che digitano, è sicuramente interessante, stimola. Però non si può viaggiare in un treno che puzza di cesso in una maniera incredibile. Sì, hai ragione. Sei arrivati direttamente al sodo, quindi diciamo, facciamo un piccolo appunto. Facciamo un appunto, fate un po' di pulizie, dai. Certo, sì. Capita, io sono 35 anni che prendo il treno. Capito. Tutti i giorni, quindi... O prendi questi treni costosissimi, di cui praticamente noi non possiamo, insomma... Salutiamo Italo, sei in ascolto. Esatto, in questo caso. Soprattutto lui. Oppure la fascia per i poveri come me è praticamente una fascia abbastanza così penalizzata dagli odori. Secondo me lo fanno apposta per portarti sulla fascia in prima classe. Esatto. In prima classe. Vabbè, allora Spacca il Silenzio, in questo caso un invito, quindi non essere omertosi, ma spaccare il silenzio e dire anche di queste cose, no? Certo. Quindi... Poi volevo dire anche un'altra cosa invece, però poi scendi alla stazione e percorri questa strada, sono arrivato qui a piedi. Hai fatto una bella passeggiata, dai. Sì. Era una bella giornata, quindi... No, infatti, a parte che non avevo mai visto Padova con questi colori, colori così un po' crepuscolari, però veramente molto molto bella. E tra l'altro ci sono delle signorine, ragazzi, da capogiro. Ma ti ricordi quella famosa frase di Battiato dell'epoca, oppure di un altro cantautore ligure? Ti ricordi, Padova ha una certa importanza dal punto di vista proprio delle ragazze, le ragazze di Padova. Ci hanno visto lungo. Ci hanno visto lungo. Benissimo, allora salutiamo anche la fauna e la flora padovana. Esattamente. Benissimo, due grandissime amiche. E proseguiamo nel parlare con Luigi, appunto, di questo progetto che si intitola Spacca il Silenzio. Innanzitutto, questo nome, come vi è venuto, Luigi? Ma guarda, questa è una cosa abbastanza datata. Pensa che prima, diciamo, gli esordi della band, del combo così in trio, era nomenclato Fire, un nome che poi uscì fuori da un disegno, niente di incredibile, una roba, poi una storia anche abbastanza così da teenager. Dopodiché ci siamo resi conto che avevamo assolutamente la necessità di avere un nome che in qualche modo identificasse il nostro forse modo di essere, ma anche dell'epoca e comunque di lunghe vedute. Allora probabilmente volevamo, non so, stimolare questo amore per le sinestesie, e allora, sai, ci siamo avvicinati al ragionamento che fondamentalmente il silenzio non necessariamente è silenzio e il rumore non necessariamente è rumore. Questi due concetti fusi insieme ci hanno fatto veramente andare avanti con un viaggio mentale che probabilmente è durato molto, molti, molti giorni. In questo caso siamo nel principio della metafisica. Poi pruriti vari, sì. e tra una roba e un'altra abbiamo deciso che forse il nome più adeguato a definire il progetto che un po' di anni fa stava nascendo, insomma, potesse chiamarsi proprio così, Spacca il Silenzio. Noi stiamo con Luigi Grella per presentare, appunto, l'ultimo lavoro di Spacca il Silenzio. Si intitola Incisioni fonomeccaniche elaborate durante i concerti di... però un titolo lunghissimo, però vogliamo partire da qualche anno prima, quando usciva un EP, era il 2009, esatto. Un EP particolare, vissuto intensamente da parte di Spacca il Silenzio, perché c'è una cosa particolare che vale la pena ricordare sin dal principio, sì. Una grande collaborazione con un grande artista che noi salutiamo sempre nei nostri cuori. Lui è in cielo, sta facendo compagnia agli angeli, sta scrivendo delle canzoni per loro, salutiamo Lucio Dalla. Sì. Sì, io non lo so se sia in cielo, sai, sto leggendo un nuovo libro di Pupi Avati, una sua autobiografia, dove spesso ritorna questo discorso di chi muore va in cielo, bellissima sicuramente come immagine, magari sarebbe un po' più da sviscerare, però dovunque egli sia, insomma, davvero il nostro più caloroso ti vogliamo bene, ecco, questa è la verità. Se vuoi te lo racconto proprio velocemente, oppure come sì, come allora preferisci. Guarda, ascolta, abbiamo parlato tantissimo, facciamo ascoltare il pezzo, poi torniamo sull'argomento dopo che ce lo siamo per bene ascoltati. Va bene. Allora ascoltiamo qui all'interno della programmazione live di Blu Radio Veneto, Blu Time Live, Spacca il Silenzio con questa canzone che si intitola Da questo muro, featuring Lucio Dalla. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Da questo muro potrei cadere. È questa la sbornia che mi fa viaggiare. È l'unico modo per comunicare alla gente questa emozione. Vorrei che il mondo potesse capire quello che crea in me questo panorama. Non è una foto, non è un quadro, è solo l'abisso intorno a un luce. Se si potesse volare sopra la città, volare davvero e non con la mente, si potrebbe giungere all'infinito, si potrebbe volare da questo muro. Ma ho paura di cadere giù. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ancora all'interno di Blue Time Live abbiamo appena ascoltato un pezzo, si intitola Da questo muro, loro sono Spacca il Silenzio, era il 2009 e come collaboratore d'eccezione c'era Lucio Dalla al clarinetto e se ne riconosceva anche lo stile, perché quando suona Lucio Dalla al clarinetto è tutta un'altra cosa. Lui è un polistrumentista unico. Però da sì. Guarda Valerio, ti racconto questa cosa. Lui pensa che ha registrato in totale presa diretta e senza conoscere il brano. Cioè era forse la seconda volta che ascoltava questo brano, la prima volta gliel'abbiamo fatto sentire in maniera veramente fugace, però probabilmente lui già con molta attenzione aveva designato le sorti di questo pezzo. In casa sua pensa da uno osterietto, ma di quelli lì proprio veramente piccolissimi da mercato. Poi che cosa è successo? Che abbiamo dovuto insomma inseguirlo un po' Lucio Dalla per far sì che appunto prendesse parte come clarinettista a questo nostro extended play. Mi piaceva prima di tutto il discorso di ottenere un suo intervento come clarinettista, perché ricercavamo quel qualche cosa che di Lucio Dalla poi non era così scontato. Voglio dire, sicuramente sentirlo cantare o sentirlo duettare in un nostro brano sarebbe stato altrettanto pazzesco, però andare a ritrovare quello che fondamentalmente era il Lucio Dalla degli esordi, il Lucio Dalla della Dr. Dixie Jazz Band, che rubava appunto il posto a Pupi Avati come clarinettista jazz, mi interessava tantissimo. Mi interessava tra l'altro la sua spontaneità, perché è questo che poi lui è stato anche in questo brano. Certo. Tra l'altro noi abbiamo conosciuto Lucio Dalla suonando proprio sotto casa sua, cioè per strada. Io e mio fratello, che tra l'altro stasera è in Turchia, ad Istanbul, in vacanza, e che saluto con tutto il mio affetto, abbiamo affrontato, diciamo, tutte le sorti che insomma ti pone davanti l'essere un artista di strada, come si suol dire. Quindi ci siamo messi veramente sotto casa sua, una volta appurato dove abitava. Sì, a modi bravi, capito? Sì, cioè, sì, ho capito. Tanto da qua devi passare. Però hai detto una cosa giusta, però Lucio Dalla spesso e volentieri scendeva. Sì, sì. E andava a sentire i ragazzi che giravano intorno a casa sua e suonavano. A meno che non si fosse calato dal balcone di nascosto tipo le 4 di notte, prima o poi. Cioè, veniva fuori. Sono esseri umani. Certo, la cosa bella è che comunque chiaramente non era una persona legata alle solite figure di bodyguard, anzi, era una persona veramente molto, molto semplice. Una persona che si metteva anche, come appunto è capitato con noi, in gioco, senza sapere poi quello che gli sarebbe capitato dopo, perché potenzialmente potrebbe anche essere un qualche cosa che ti si ritorce contro, sai, questi grossi insicuri dell'arte. Non parlo perché se parlo troppo poi non suono, perché se suono con o se suono in questo, ragazzi, cioè viviamoci la vita veramente, certo, anche spontaneamente, certo, fatta anche di tante cazzate, perché probabilmente quello che sto dicendo stasera magari tra 2 anni non è anche non... vero che molte volte, Luigi permettimi, molte volte ci sono le major di mezzo che mettono anche dei paletti a quelli che sono gli artisti, però sì, forse Lucio in quel periodo là era già svincolato e ampiamente da tutte, sì, quelle che erano le leggi di potere, perché il potere in quel caso era, guarda, il suo. Mi aiuti a dire una cosa che chiaramente della quale sono fiero, sono contento, ci ho messo tanto lavoro per creare quest'opera e poi ci sono riuscito, che siamo veramente l'unica realtà italiana appartenente al mondo dell'underground, se vogliamo parlare di questo tipo di ambiente, che è riuscita ad ottenere un incrocio con un grande del cantautorato molto affermato, chiaramente, quindi appartenente a un mondo benché fosse abbastanza poliedrico e abbastanza intellettuale, Lucio Dalla, però appartenente a un mondo anche del mainstreaming, che ha incrociato in maniera spontanea, cioè senza incroci dettati da etichette, situazioni manageriali, avvocati di mezzo, ha incrociato la storia di un gruppo, in questo caso noi, gli Spacca il Silenzio, mettendosi in gioco, e veramente di questa cosa ne sono contentissimo. È stato un lavoro lungo. Benissimo, un'ultima battuta prima di continuare con l'ascolto di altre canzoni legate sempre a questa canzone, Da questo muro. Io mi ricordo che Lucio Dalla scriveva un tempo Disperato Erotico Stomp, un discussissimo pezzo molto divertente, poco radiofonico. In questo caso la batteria la suonava un certo Bonetti, non è che c'è stato in questo disco quel no. Bonetti amicone di Lucio Dalla, peraltro. No, non è lui, però in realtà anche io ho sempre associato l'immagine del Bonetti che Lucio Dalla nomina in Disperato Erotico Stomp al nostro buon Eugenio Bonetti, che poi tra l'altro ci ha lasciato mio malgrado, diciamo, ma semplicemente ha intrapreso un altro tipo di carriera, non era più disposto, diciamo, a mettersi in gioco così dal punto di vista musicale live, a seguirci in giro. Benissimo, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando con Luigi Grella per gli Spacca il Silenzio, questo gruppo partenopeo di nascita ma d'adozione bolognese. mese e dei loro incontri così particolari come appunto avuti in questo, da questo muro appena ascoltato. Vediamo di parlare invece dell'ultimo disco, che appunto si intitola, prendete bene nota, Carta e Penna, incisioni fonomeccaniche elaborate durante i concerti di, molto lunga, bisogna prendere il fiato dal lungo. E allora, alla linea Wettmüller praticamente. Sì, sì, sì, sì, sì. Assolutamente sì. Ti sei ispirato a quei lunghi che, titoli di film di linea Wettmüller. Che associazioni fantastiche. Sì. Allora, vediamo di ascoltare qualche accenno di questo disco, che naturalmente è ambientato solo live in 8 posti diversi. Sì, sì. Poi ti racconto anche perché. Allora, questo brano che ti accenno, e poi come da accordi, come da scaletta, sì. Lo facciamo ascoltare in versione registrata. È un brano che inizialmente ha visto anche la coproduzione di Guido Elmi, che è conosciuto come il produttore di Vasco Rossi, cioè quello che ha prodotto praticamente quasi tutti i dischi di Vasco Rossi, compreso proprio le ultime cose. Pensa che anche lui abitava nello stesso palazzo di Lucio Dalla. Quindi il palazzo di Lucio Dalla era praticamente da prendere di mira, capito? Punto di riferimento praticamente. E lui a un certo punto, nemmeno a farla apposta, nonostante le mille vicissitudini che già da tempo avvenivano, insomma, ha deciso poi di produrre delle cose per noi, compreso questo brano, che poi abbiamo deciso anche di inserire nuovamente in questo disco dal vivo, che vede 5 inediti e tre brani tratti dal vecchio Extended Play. Lui praticamente ha prodotto il brano in studio, che più o meno faceva così, te lo faccio ascoltare un accenno, poi ce lo ascoltiamo dal disco. Si chiama Leggendo di Lou Reed. Cos'è che volevo dire? Cosa stavo pensando? Scrivere senza capire, mettere su carta, saper comprendere, saper percepire, senza impazzire ad affinare lo stile. Sono le mie righe. Col giornale mi tocca nel cuore, questo so dire, questo so fare, lasciami stare. Sono idee, e non voglio scrivere. delle domande stupide. Che cos'è un'idea? Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. E con questo pezzo degli Spacca il Silenzio siamo riusciti a capire quello che è il sound dal vivo, gruppo completo, quindi salutiamo ancora Feliciano e Cristiano, spero che Feliciano, che è in Turchia, ci possa ascoltare tramite tutte quelle che sono le apparecchiature internazionali, tipo internet ad esempio, e lo streaming audio, e quindi lo salutiamo, e salutiamo invece Cristiano, che più tardi avremo modo anche di sentire via telefonica. Poi ci proviamo, sì, anche con la Turchia. Ma intanto proviamo magari anche con la Turchia. Sì, sì, sì, sì, potrebbe, sì, essere divertente. Proviamo. Allora, Luigi aveva detto una cosa giusta a Flavio, sì, prima, sì, mentre parlavamo, mentre il pezzo andava. Avere, essere un gruppo emergente ed uscire con un disco ufficiale con 8 live è una cosa che è raro che accada. Per un gruppo emergente di solito esce con un disco, di solito lo chiamo il greatest hits, cose, sì, che avevano fatte negli anni precedenti, esce con un disco di inediti, ma inediti nel senso in studio, non, sì, dal vivo, assolutamente puliti e privi di ogni sbavatura. Invece qua si sente, ma cioè, sai che è bello questo parlare con dei radiofonici. Poi tra l'altro, beh, tu hai fatto radio, fai sì, radio anche te. Faccio radio anch'io, ma sì, sono, io ho fatto scuola a Radio Elettra, sono, sì, no, di Torino. Aspirante, sì, diciamo speaker, nel senso che cerco di fare del mio meglio, però se me lo permettete saluto, sì, tutti i miei amici di Radio Kairos, che a Bologna tutti i lunedì trasmettono appunto da Blu Radio Veneto, Blu Radio Kairos. Potremmo creare un ponte, sì, sì, sì, sì. No, quello che sapete, oggi nasce il discorso di ufficio stampa, cioè tantissime band, tantissimi progetti si cercano di munire d'ufficio stampa, che sarebbero poi quelli che dovrebbero mandare a destra e a sinistra i dischi con un minimo di biografia, con un minimo di qualche cosa che possa catalizzare l'interesse di direttori artistici e di speaker radiofonici. Allora, voi sapete questa cosa, quando noi parlavamo con uno dei tanti uffici stampa che avevamo deciso di contattare, oggi tra parentesi noi non abbiamo nessun ufficio stampa che cura il nostro lavoro, tutti ci hanno detto: ragazzi, voi siete dei folli, perché un disco live non ve lo passerà nessuno. perché le basi per passare oggi in una radio italiana dovrebbero essere quelle del disco registrato in studio. Allora, ditemi voi a questo punto come uno come me è l'ultimo fesso di questo mondo debba sentirsi, cioè nel senso a me interessava tantissimo invece rappresentare con questo disco quello che noi siamo, cioè un gruppo che basa la sua storia sui concerti. Noi siamo riusciti ad essere conosciuti in mezza nazione grazie ai nostri concerti, grazie ad essere andati a suonare ovunque e continuare ad andare a suonare ovunque, anche nelle situazioni più assurde alle volte, ma anche se ci devo andare io con la chitarra e senza niente ci vado perché proprio voglio andare, e se ci devo rimettere le mie scarpe lo faccio e lo farò, credo sempre, mi auguro. Allora, questo voleva essere la fotografia di questo disco. Ascolta, sì prego, scusami Luigi, ti ho interrotto. No, quindi me la spiegate voi questa cosa, cosa succede veramente nelle radio? Cioè... hanno paura, è contro determinati dettami, determinate idee. Non si può fare un disco live per un gruppo emergente, è una cosa, è un'eresia. Cioè, siamo ancora qui. Musica, sì, non siamo negli Stati Uniti o in Inghilterra o in Germania, siamo in Italia, non abbiamo questa mentalità aperta. Può capitare in Inghilterra e negli Stati Uniti che un gruppo emergente si faccia sentire con un live come primo disco, perché no? Può capitare, è già capitato. Ma sì, ma assolutamente, credo proprio sì. Soprattutto i gruppi punk lo facevano ben volentieri, discorso certo. Qua. In questo caso stiamo parlando di un pezzo appunto preso da incisioni fonomeccaniche elaborate durante i concerti di Bologna, in questo caso stiamo parlando di Bologna, anche se la canzone parla di Napoli, 16 maggio del 2004. Sì, allora, qualcuno ha una vaga idea di cosa è successo il 16 maggio del 2004? Non sappiamo se tutti la pensano alla stessa maniera. Allora, a parte il compleanno di qualcuno, non è successo proprio niente, a parte la folgorazione, diciamo, del mio essere. Sì, ricordiamo solo Roberto Baggio, 16 maggio 2004, sì. ha dato l'addio al calcio. Non c'è stato nessuno, ma probabilmente ci saranno state mille condizioni che mi hanno portato a scrivere, ma fondamentalmente è la data e il luogo dove ho scritto queste parole che insomma ascoltate, musicate, insomma. Quindi 2004 eri ancora ero di passaggio a Napoli. A Bologna abito ormai da circa 12 anni, quindi sì, intorno al credo 2000-2001 sono andato via subito dopo il servizio militare, che ho avuto la sfiga di farlo dove? Allora dobbiamo fare così, dobbiamo cambiare la scaletta, ci dobbiamo sentire questo pezzo. Allora c'è questo brano che si chiama Ora posso guardare le cose con lucidità, che se volete ce lo ascoltiamo anche subito. Perché? È un brano che fonda, diciamo, parte delle sue ispirazioni sul fatto che io ho dovuto regalare questi miei 10 mesi a uno Stato che poi tra l'altro ancora oggi non ci tutela praticamente proprio per niente. E tra le tante cose, sì, per rispondere a Maurizio, dunque sono stato a Cervia, sono stato a Viterbo, Cervia, che facevo tipo scalo mi sa a Cesena, una roba del genere, e poi sono tornato giù a Napoli, facevo il VAM, che è il servizio di vigilanza aeronautica, esatto, sì. Ero quello che non dormiva mai, no, poi, proprio così. Tanto non dormo nemmeno stamattina, mi ha telefonato Valerio in un orario decentissimo, tipo verso le 10:30, no, erano le 11:10 e io ho risposto pronto, sì. Dice, ma stai dormendo? Dico, sai, faccio la notte, io non dormo, dormo fino a tardi. No, niente, ascoltiamocelo, dai. Ora posso guardare le cose con lucidità, si chiama. Allora cambiamo rapidamente la scaletta, mettiamo quella che è la traccia numero 2, quindi fatto in velocità, e adesso allora questa canzone con questo titolo altrettanto lungo, Ora posso guardare le cose con lucidità. Loro sono gli Spacca il Silenzio qui a Blu Radio Veneto. Blu Time. Questo grande che vivo vissuto. Quanto pesa il tempo, il periodo di tempo che inizia nel lontano 30 d'agosto il 99. Ritrovo conferma guardando il concetto. Dove era fatto che io militare, l'essere scelto che sei giunto allora. Che bella parola, fusione emblematica che fa paura. Capire se arto storia, posso posto alla pazzo lontà. Guardando le cose con lucidità, riassumere tutto, rimettere insieme con lucidità, restare razionale. Scelgo di sfogare, sono non sarei mai. Non ho più testo, buddista e storiare. Due teste parole, la dico sul suo. Giorni di vita, trascorso a pensare, scrivere di scu. Senza mai perdere la testa del mare, sentirsi guaresco. E non respirare, la mia meglio storia sta per iniziare. L'unica mia certezza è l'insicurezza. L'unica mia certezza è l'insicurezza. L'unica mia certezza è l'insicurezza. Che non guardo le cose con lucidità. L'insicurezza, già sempre l'insicurezza mia non ha più fine. Restare solo e forte, essendone la corrente. Che ora non c'è più niente, ti giuro fa molto male. Frasi che non scrivo così tanto per ingannare. Non si può immaginare il significato di odiare allo stesso tempo amare. Non versare le tue lacrime, ricevo buona onda. Lo studio ci lega un faccio da tordo. Cremo del tornado, ma cosa ho meritato? Perché ci sono guardare le cose con lucidità. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Siamo ascoltati in un live con tutti gli strumenti musicali all'attivo di Spacca il Silenzio. Ora posso guardare le cose con lucidità e mi sembrava un messaggio un po' forte quello. L'unica certezza è l'insicurezza. L'unica mia certezza, sì. L'unica mia certezza è l'insicurezza. L'unica mia certezza è l'insicurezza. Un brano anche rappato, se vogliamo, perché sì. Stiamo parlando di pop, stiamo parlando di ballate rock, sì, sì. Ma anche in alcune sensazioni jazz. Abbiamo ascoltato anche già in principio con la canzone con Lucio Dalla, c'era molto jazz. Questa volta il rap, perché in questo caso il rap dà anche la fonte dell'arrabbiatura, si può dire così. Ma guarda, del disagio. Una delle cose che mi hanno portato a fare quel brano cantato in quel modo era il fatto che nel tempo minore possibile dovevo dire il numero maggiore di parole. Vediamo allora se abbiamo correttamente in linea anche il batterista della band Spacca il Silenzio. Quindi diamo anche il benvenuto a Cristiano. Buonasera Cristiano. Ciao, grazie mille, buonasera a tutti. Buonasera Cristiano. Allora, dove ti abbiamo beccato? Io non sapevo, a parte il fatto che ti ho chiamato prima dal treno, però non sapevo che ti stavano già chiamando. In questo caso sì, perché volevamo sapere già qualcosa anche da Cristiano. Allora, innanzitutto benvenuto in frequenza. Che effetto fa suonare con i fratelli Grella? Quindi, che effetto fa? Tu che sei fuori dalla famiglia, però t'hanno detto tu sei il nostro terzo fratello. Sono esatto, un fratello acquisito. Che effetto fa? Devastante. Come le canzoni che abbiamo ascoltato, quelle delle versioni live, delle incisioni fonomeccaniche, ha avuto un effetto devastante anche a noi, per cui figuriamoci uno da dentro come le possa definire. È un'esperienza molto importante, sicuramente, molto formativa e divertente, a momenti stressante, chiaramente, quando le date sono molte, quando si incontrano i problemi che sulla strada una band che è sempre in giro incontra, però insomma la vita del musicista. Sicuramente Spacca il Silenzio è una realtà, penso, almeno per quanto mi riguarda, è importante, insomma, una grossa fetta del mio essere batterista, insomma, è una bella esperienza, Cristiano, è un combo, e già quando dici combo identifica il rock. Combo erano i Cream, basso, batteria e chitarra, caro Cristiano, quindi non puoi cioè è un rock acustico, d'accordo, suono chitarra acustica, basso acustico, ma c'è sempre l'anima rock, c'è poco da fare, essendo combo, chiaro. È l'essenza, secondo me, l'idea nasce da quello. Cosa dici, Cristiano? Sì, no, assolutamente così. La forma di trio, secondo me, è una forma particolare, esatto, un combo, un trio è una cosa particolare, far riuscire un groove specialmente rock in tre, creare un muro di suono, insomma, serve dell'affiatamento, del anche, coraggio, sempre. Anche del coraggio, sì, coraggio musicale, sì, intendo dire, chiaramente. Sentimento. Certo. Esattamente. E soprattutto un continuo movimento, oltre che sentimento, perché da batterista bisogna coprire tanto, no? Quando si è solamente, sì, quando sì, si è solamente in tre. Comunque, quello quali sono, diciamo, i tuoi ascolti normali? Cioè, oltre ad ascoltare Spacca il silenzio, ogni tanto ti permetti di ascoltare qualcos'altro? Allora, io ho un background personalmente assolutamente rockettaro, insomma, non heavy, ma nasco, il mio primo disco rock è stato Led Zeppelin 1, che ancora ascolto, insomma, e vengo da lì, senza andare in forme di rock più pesante. Poi ho sempre ascoltato un po' di jazz ultimamente negli ultimi anni, insomma, sto approfondendo questa cultura. Adesso ti devo dire, nell'ultimo paio di anni, per il 70-80% ascolto soltanto jazz, un po' di musica latina. E mi sto approcciando alla classica, argomento molto vasto e complicato che mi risulta ostico, onestamente, al momento. Sì, però anche perché un batterista che si versa verso la classica. Beh, la classica, benché se si possa, benché se ne dica, ha molto, molto a che fare con rock. Sono alcuni compositori veramente molto, molto affini al rock. Però chiaramente, insomma, lì a batteria non c'è. No, quello no. Io penso, cioè, i tamburi, ecco, possiamo dire questo. Io penso qualunque buon ascolto aiuti un musicista molto. Ecco, una cultura generale, anche per quanto riguarda l'ascolto, aiuta molto un musicista ad evolvere la propria espressività. Questo sicuramente. Bene, un'ultima cosa, Cristiano. Stavo guardando il vostro sito internet che si intitola www.spaccailsilenzio.it, sì, dove abbiamo, diciamo, assunto molte informazioni su di voi. Ma devi dirmi una cosa: cosa stavi bevendo con Feliciano? Cosa stavo bevendo? Sì, no, perché vedo sulla pagina principale di internet che avete dei bicchieri che però vengono tagliati a metà per non permettere, diciamo, agli avventori del sito di vedere cosa state assumendo. Ma prima se non ricordo male, era del vino. Del vino rosso. Sì. Sì. Poi, no, sì, confermo allora. Io sì, penso che fosse del vino, un po' di vino. Poi siamo andati anche un po' di grappa, mari, sì, robe di questo genere. Abbiamo fatto un po' baldoria poi quel giorno. Ma sai che è stato un giorno, tra l'altro, molto molto sentito, cioè ci ha toccato particolarmente questa cosa. Quasi una giornata intera dedicata a un servizio fotografico che, tra l'altro, avevamo vinto e ci ha immortalato un grossissimo fotografo. Lui si chiama Daniele Barraco e ha fatto delle foto per delle situazioni veramente incredibili. E vincemmo un concorso che praticamente dava come premio questo reportage fotografico. Quindi abbiamo poi scelto questo baretto di Bologna, che è abbastanza tipico, per farci ritrarre in posa, diciamo. Benissimo, allora salutiamo Cristiano e continuiamo con quella. Grazie, Cristiano. Oh, grazie a voi, grazie mille, grazie a tutti gli ascoltatori. Continua a stare in ascolto di Blu Radio Veneto, così fanno anche i nostri ascoltatori che non possono accedere alle frequenze tradizionali, ebbene lo ascoltano tramite internet, quindi la programmazione streaming audio è molto semplice, basta entrare al nostro sito internet bluradioveneto.it, cliccare nella pagina riservata gli Spacca il Silenzio e cliccare su Ascolta la diretta, quindi molto semplice. Allora, abbiamo stravolto un po' la scaletta, Luigi. Questa volta ci propone qualcosa di acustico, solo con chitarra, forse anche con l'ausilio dell'armonica, mi sembra di capire. Ma sì, non so, questa qui come mi metto. provo a mettermi comodo. In realtà è un brano, come diceva Cristiano, noi ci affacciamo tantissimo anche sul, sul panorama sudamericano. Questo è un brano che molte volte suoniamo in versione tra virgolette samba, e più o meno è così. Anche se qui di samba ci sarà poco. Scrivere quello che è. Una ventata. Se solo tornasse sarei più attento. La che desidererei. Credo di non avere le giuste parole. Che aria che entra ogni volta da questa finestra e la sento sulla faccia. Che bella canzone che dovrei, questo vorrei scrivere. Vento di settembre 2004, che ricordi che ci saranno, peccato in futuro. Vento di settembre 2004, che ricordi che ci saranno, peccato in futuro. Vento di settembre 2004, che ricordi che ci saranno. Di bruciato non conosco parole per parlarne. Arriva ogni tanto una ventata, e guardo qui fuori l'effetto che ha. Gli alberi si muovono e guardo qui fuori l'effetto che ha sugli alberi che si muovono. Vento di settembre 2004, che ricordi che ci saranno, peccato in futuro. Vento di settembre 2004, che ricordi che ci saranno, peccato in futuro. Vento di settembre 2004, che ricordi che ci saranno. Blue Time. Blue Time. Blue Time, live Blue Time. Live. Ricordiamo a chi si fosse messo in ascolto solamente adesso che questa è Blue Radio Veneto all'interno di Blue Time Live, assieme a Flavio Bilato, Maurizio Calzavara, insieme a noi Spacca il Silenzio, un gruppo di Bologna, anche se vengono da più lontano nel senso di sangue, diciamo, il sangue caliente partenopeo. Spacca il Silenzio, appunto, in questa serata abbiamo Luigi Grella, voce e chitarrista, voce, chitarra, chitarra, nonché un po' di robe, scrittura, un po' di robe, sì, di Spacca il Silenzio. Con lui ci sono Feliciano Grella, che è anche il fratello, suona il basso, e Cristiano Delfino, che abbiamo ascoltato prima, e suona la batteria. E allora, sempre presente il 2004 nelle tue canzoni? Beh, 2004 detto, sicuramente sì, lo sto notando, sto fatto che ogni tanto spunta fuori, ma ho scritto parecchie canzoni in quel periodo. Adesso qualche mese che devo dire non immortalo l'idea, come mi capita dire, sì. Però sì. Il 2004 c'è. Allora, prima si parlava di musica live, nel senso di questa concezione live, appunto, anche nel presentare il disco, che per forza non deve essere un disco preparato in studio, ma appunto c'è questa sfida nel proporre questo disco chiamato Incisioni fonomeccaniche elaborate durante i concerti di. A proposito di concerti di, voi siete stati protagonisti anche assieme ad altri nel palco, avete aperto concerti anche di altri grandi della musica rock o della musica pop, ad esempio i 99 Posse. Ah. Come mai c'è stato questo legame? So che anche loro sono del sud, partenopei. Vengono partenopei anche loro, sì. Sì, in realtà con i 99 Posse abbiamo avuto un'esperienza comune, ovvero l'apertura di un concerto di Vasco Rossi. Quindi niente, abbiamo semplicemente lavorato su quel palco lì, facevamo tutte e due spalla a Vasco Rossi in un tour, dunque, che se non sbaglio non era Buoni o Cattivi, ma era Stupido Hotel, esattamente, sì. Bravo. E questo è stata la nostra esperienza con i 99 Posse, a parte di vederli molto in giro per Napoli quando abitavamo a Napoli come noi, e li saluto tutti loro. Gruppo composito, sì, decisamente composito. Marco, Massimo e Luca, insomma, buona suerte. E poi siete stati anche supporter degli Schiantos, quindi vero. Stiamo parlando di un gruppo invece di Bologna, quindi la vostra patria adottiva. Sì, in questo caso. Anche lì apertura di un concerto a Bologna, un grosso concerto in Piazza 8 Agosto. Chiaramente ambisci sempre ad aprire, come dire, come si suol dire, appunto, concerti di nomi più noti per cercare di avere il pubblico maggiore davanti a te, che possa in qualche modo ricordarsi di te, del tuo sound, del tuo nome, che appunto è Spacca il Silenzio. Ma cosa vuol dire aprire un concerto per Spacca il Silenzio? Ma cosa vuol dire? Sicuramente tanta fatica, perché non è così semplice arrivare a stimolare l'attenzione di quelli che sono, tra virgolette, più grossi di te. E poi è una magia incredibile. Per esempio adesso abbiamo però purtroppo, vedi, quando c'era quel bel pezzo di Ron che diceva parlare dei successi e degli applausi e degli insuccessi, insomma, in qualche modo non parlarne mai. Per esempio siamo stati finalissimissimi di Ritz Wave 2013, poi ce la siamo giocati con chi? Male. Praticamente in Emilia Romagna siamo arrivati alla finale delle finali delle finali, poi bastava un pezzettino, ecco, bastava un pezzetto, e sarebbe stata un'emozione pazzesca quella di andare ad aprire quest'anno il festival Ritz Wave. Non ci siamo riusciti, speriamo l'anno prossimo, per dire. Quindi che cosa, mi allaccio a questa cosa, sì, per dirti che il momento in cui ti stanno per dare un audience più grosso. Chiaramente vivi una serie di paure, anche di angoli, le tensioni, il sogno. Sai che cosa? Che il fatto che probabilmente noi abbiamo un grosso problema economico, se vuoi, cioè non abbiamo le spalle coperte, forse sembra sempre che quello sarà il momento in cui ti stai giocando tutto, e quindi, hai capito, poi quando ti viene tolto quel qualche cosa, quel sogno, quell'apertura, magari non la fai tu, la fa un altro, dici cavolo, c'ero arrivato, e adesso insomma vedremo, però chi vedrà, magari un giorno riusciremo a sopravvivere di sola musica, come stiamo cercando di fare, tra l'altro. Però, sai, girando. Esattamente, sì, girando. Ma bisogna sempre girare per farsi conoscere, c'è poco da fare. È l'unica soluzione, nonostante tutto. Sì. Perché i dischi non si vendono più, che abbiamo detto un sacco di volte, però la gente ascolta ancora e va ai concerti, bene o male. Ecco, poi, allora, diciamo, dimmi, che i dischi non è vero che non si vendono più, probabilmente è difficile. Si vendono meno, dai. Esatto, sì. Dicono che non si vendono più. Dicono. Perché qualcuno vuole dire che non si vende. Esatto, più. Come a un certo punto ci hanno incominciato a dire che c'è la crisi, no? Ma cos'è questa crisi? E allora mi viene da dire che no, le persone sicuramente sì, c'è una fascia di interessati realmente alla musica che acquista i dischi ai concerti, e che è giusto forse anche che sia così. Vengo a un tuo concerto, ti vedo, se mi trasmetti quel qualche cosa, se hai quel quid in più che faccia sì che, insomma, la mia voglia, no? Mi dica sì, ok, prendi il disco di questi ragazzi e portali nella fattispecie, ecco, di Spacca il Silenzio, sì, esatto, e portatelo a casa e tienitelo con te per sempre, sicuramente, sai, è una cosa molto interessante, cioè lo fai solamente se lo vuoi, non devi, sì, per forza essere un progetto super pompato dai mass media. E allora vediamo di ascoltare ancora un altro pezzo da questo CD completamente live. Sono 8 tracce, tutte da ascoltare. Ricordiamo agli ascoltatori il titolo: incisioni fonomeccaniche elaborate durante i concerti di, e poi ci sono naturalmente gli 8 punti dove appunto gli Spacca il Silenzio si sono esibiti. Allora li ascoltiamo in una di queste esibizioni live con questo scherzo jazz, dove sentiamo innanzitutto come c'è l'ammiccamento tra Luigi e quello che è il pubblico che gli... Il pubblico di Perugia che ti sta intorno e ride e scherza con te. Ascoltiamolo, eccolo. Ecco, chi non vuole sbattere le mani può anche andare via, Poche. Allora, attenzione, vi racconto. Senti, statemi a sentire. Un attimo, allora. Una volta ci siamo trovati a fare un concerto in Olanda, ho fatto l'errore di far sbattere le mani, voi non avete idea di che cosa poteva succedere. Cioè, abbiamo fatto un pezzo lì e trum. Ecco, se sapete andare a tempo, bene, se non sapete andare è lo stesso, però tipo fa appoggiate, piano. Cioè chi sa di essere proprio aritmico può astenersi. Chi invece c'ha il ritmo nel sangue, che si faccia sentire. Ecco, legatela. Siamo pronti? Facciamo una prova? Allora, se... Che rido un attimo lì. Io suono solo io. Ecco, voi vediamo un po' se riusciamo a fare questa cosa. Qualcuno che abbia il coraggio di partire. Non si accettano i levare. Siete perfetti. Un metronomo. Allora, la facciamo bene. Perché poi chi lo sa? Ah. Signori e signore, scherzo jazz. Bye-bye. problema nella vita. La poca sincerità. Vorrei essere collegato alla tua testa per poter vedere quando sei sincera cosa pensi veramente. Perché non si dice mai tutto e sono tanti pensieri, sono lavoro tanti, non si dice mai la verità completa e tu non puoi fidarti. Sei sempre in evoluzione, ogni pensiero è un'evoluzione, ricambia, ricambia, non si ferma mai. E tu non puoi fidarti, perché sei sempre in evoluzione, e quello che fino a ieri fino a ieri c'è, oggi che oggi non esiste più. Ogni pensiero è in evoluzione e cambia e ricambia, non si ferma mai. E tu non puoi fidarti, perché sei sempre in evoluzione. Quello che fino a ieri c'era, ti accorgi che oggi non esiste più. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Abbiamo ascoltato questo scherzo jazz, iniziato così per scherzo, ma poi si è continuato per davvero, nel senso che il pezzo aveva tutta la sua composizione, tutto il suo stile, era già tutto bello preordinato. Ti sei fatto aiutare, vi siete fatti aiutare dal pubblico, che in questo caso batteva in maniera assolutamente ritmica le mani. Sì, sì. Sì, ma infatti, guarda, ne stavo. Ma io non so se prima ci stavamo ascoltando, sì, cioè, o tu ci stavi ascoltando di nascosto. Però con Maurizio. Non mi permetterai mai. Con Maurizio ci stavamo dicendo senza le cuffie. Proprio questo: il fatto che. Un live può essere preordinato, ma fino a un certo punto il live, sì, poi è improvvisazione. E questo caso dello scherzo, del coinvolgimento del pubblico, è improvvisare. Totalmente, improvvisato. Sì, guarda, io tra l'altro mi sono, sai, quando abbiamo registrato questo disco, noi fondamentalmente non avevamo la più pallida idea della traccia che avremmo preso da ogni concerto, e mi interessava, sì, essere molto vero, essere molto performer da questo punto di vista, perché proprio è un po' quello che è lo spirito, sì, deve essere così, essere molto veri, capito? Certo. E poi, come ci dicevamo prima, il fatto di registrare in studio delle tracce, per quanto mi riguarda, mi ha sempre messo un po' in crisi. Hai detto una cosa bella, adesso la puoi ripetere, puoi ampliare, sì, gli ascoltatori, sì, non l'hanno sentita. Sì, noi ci parlavamo così dietro le quinte. Come si usava una volta, dietro le quinte. E ci diceva, io chiaramente il discorso di concludere una traccia, concludere un brano, lo vivo sempre come un po' un qualche cosa non so, di sofferenza, sì, un minimo, sì, di, sì, sofferenza. Sì, invece il fatto di poter suonare dal vivo mi mette nella condizione di poter cambiare, anche se in minimi dettagli, certo, volta per volta, un brano. Questo per dire che fondamentalmente un brano credo che non possa mai ritenersi concluso. È sempre un qualche cosa di così aperto. Niente. Sorpresa delle sorprese. Siamo riusciti a prendere in Turchia Feliciano Grella, bassista degli Spacca il Silenzio. Buonasera Feliciano. Buonasera, ci sono, che bello. Ciao, che piccolo. Bello sentirmi. Ciao. Allora, insomma, tutto. Io, Tutto bene? Io ho appena finito di mangiare un mega kebab, sì, che qua si chiama doner kebab, cioè sì, bisogna sì, dire sì, doner, perché altrimenti kebab sarebbe la grigliata mista di carne, vedi? Sì, sì, sì. Si imparano girando il mondo. Quindi il doner kebab corrisponderebbe a quella specie di fagottino ripieno. Bravissimo, è quello. Bene, bene, quindi bisogna... sì, mamma mia, non oso pensare che orari farai per digerire questo succulento preparato. Ma credo, infatti anch'io sto pensando che o non vado proprio a dormire sì, e digerisco. Sì, poi magari presenta una canzone fatta sulle orme dell'appunto della gestione del kebab a Luigi, magari viene fuori qualcosa di carino. Infatti parlavamo con mia mamma che lei gli voleva comprare appunto il cappellino proprio con il cappellino rosso, sì, come si chiama? Fez. Ah, col Fez, okay. sì. Fez, che è un cappello classico da quelle parti, sì, sì. Così che il prossimo concerto lo farai con il kebab, il Fez, come si chiama? Sì, anche così faremo ridere i polli. Ah, altro che spacca il silenzio, spacca lo stomaco in questo caso. Sì. Presentarsi sul palco con il kebab sarebbe veramente bellissimo. Bene, bene, pensiamoci. Ok, allora io ho visto che Feliciano, Luigi ha imbracciato la chitarra, forse voleva farti un pezzo, dedicarvi qualcosa a distanza. Sì. Ok, io lo ascolterò quando rientro, perché ho la batteria sì, semiscarica. Benissimo, allora niente, un saluto, un abbraccio. Grazie. Godetevi la Turchia e poi spero che un giorno possiate essere tutti e tre qua a Blu Radio Veneto. Benissimo, volentieri, molto volentieri, benissimo. Un saluto anche alla signora mamma, la signora Grella. Ciao, bene. Arrivederci. Ciao Feliciano. Ciao. Dovete sapere che praticamente sì, mio fratello si è beccato questo viaggio così all'ultimo momento. Praticamente il compagno di mia madre, affetto da una forte dissenteria, non è potuto partire. Sì. Quindi loro si sono arrabattati per problemi di cacarella, praticamente, sì, sì, sì. E per cercare un sostituto. E mio fratello chiaramente ha preso subito la palla a balzo, vum, e ieri è volato ad Istanbul. Certo, ho capito. Quindi non c'è tappo che tenga. No. No, mi è venuto in mente che c'è un brano che è stato composto per tutte altre ragioni, però sì, come effetto ci stava così quasi abbattuta. Si chiama Trauma, visto che lui si è mangiato un gran kebab. A questo punto te lo faccio sentire. Assolutamente sì. E tagliamo la testa al toro. Bene. Tagliamo la testa, anzi, al bufalo. Al bufalo. Di che si fa? Che non carne so, è? Montone. Tagliamo montone, la testa, sì, al montone. Al montone. Ecco. Difficile scrivere quello che si prova in questa vita che non sembra vera. Com'è strano dover divulgare le mie impressioni. E vivendo questa storia sempre in prima linea, capita spesso di restare solo e fissare il buio, avere paura, sentirmi ballare il cervello nel cranio e avere timore di non essere vivo. Di non essere vivo. Senza badare a rime a tutto quello che mi mette insieme questa musica, racconto lentamente quello che sto vivendo, il trauma che adesso nel cervello. sta volando dentro i miei ricordi. Penso a un angelo che adesso è su nel paradiso. Il sogno di stanotte mi ha congiunto a lui. Un ricordo troppo forte mi fa lacrimare. Aspetto che la notte però passerà. Adesso sono sveglio e non ho più paura. Arriverà domani, sarà diverso. Mi sveglio dal sogno in cui mi sono perso. E non avrò paura di restare solo, né di morire, di impazzire, di finire. Racconto lentamente quello che sto vivendo, il trauma che adesso nel cervello. Stare solo, né di morire, di impazzire, di finire. Racconto lentamente quello che sto vivendo, il trauma che adesso ho nel cervello. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Allora, se possibile, vi facciamo le ultime due canzoni. Il giornale mi tocca nel cuore. cresce sul cuore e rende eterno ogni mio pensiero. La pena e lo strumento che trasferisce sul cuore e rende eterno ogni mio pensiero. Blue Time Live, Blue Time. Live. Ancora con Blue Time Live, sono le 22:18 minuti primi, poi alle 22:30 ricordiamo c'è Rock Wave, l'onda del rock, la classifica condotta da Alberto Prisco, che è anche il nostro, diciamo, curatore artistico delle trasmissioni, lui che contatta i nostri artisti e fa sempre delle scelte giuste, in questo caso perché abbiamo l'onore e il piacere di essere con Luigi Grella, leader, chitarrista, cantante degli Spacca il Silenzio, che abbiamo sentito ancora in un altro brano molto aggressivo, un brano che avevamo ascoltato prima in una versione acustica ben più delicata, e sì, sì, questa volta sottovoce, diciamo, una versione da fare alla propria ragazza quando sei al capezzale del letto, certo. Leggendo di Lou Reed, allora, come mai ti posso tirato fuori questo personaggio? A caso oppure perché c'è un qualcosa? Vedi che si ritrovano sempre i titoli, sì. Sono sempre molto veri, è la verità, una delle tante. Io credo che l'ispirazione a un brano, alla scrittura di un brano, alla composizione di un brano in generale, non sia mai solamente una cosa che ti succede, apri il frigo e vedo la merenda. Però da poco avevo letto tutta una serie di robe relative a Lou Reed, questo cantautore pazzesco, e niente, probabilmente ha stimolato in me qualcosa che così. E poi c'è una frase che trovo di una semplicità incredibile, però era poi un po' oddio, stasera mi mancano proprio il distillato di quello che avrei voluto dire. Questo so dire, questo so fare, lasciami stare. Cioè, nella mia semplicità e nel mio modo di scrivere, anche così, molto alle volte potrebbe essere veramente semplicissimo, però ognuno ha diritto di prendersi il proprio spazio, sempre che lo faccia con tutto se stesso, che lo faccia al 100% e che lo faccia in maniera vera. Questo secondo me dà identità ad ogni forma d'arte, non solo, ma in generale nella vita, capito? Nel relazionarsi. Poi magari a uno gli sei antipatico, però se gli stai simpatico, gli stai simpatico per tutta la vita. Metascorsi musicali tui non sono collegati a Lou Reed? Ma no, poco. Ai Velvet, i Velvet Underground li adoro, ma li ho scoperti dopo, ti dico la verità. Cioè, mia madre e mio padre mi facevano ascoltare Fausto Papetti. E i Velvet Underground italiano, quello. Cioè, tutta un'altra cosa, capito? Certo. Allora, chiediamo subito a Maurizio se ha mai ascoltato un disco di Papetti. Fortunatamente hai no. Sempre comprato i dischi per vedere le copertine. Lo sì, sappiamo, esatto. Tutti. Lo sappiamo. No, non ho mai sentito c'erano un disco queste, di infatti lì c'è classifica. Stato anche, credo, uno dei momenti più importanti della mia vita, sì. Che è stato l'affacciarsi alla masturbazione. Un bambino che a un certo punto incomincia a dire: oh, ma cosa mi succede? Sarà Fausto Papetti o saranno queste super gnocche in copertina? Sì, sì, effettivamente era proprio così. Allora, ricordiamo che Spacca il Silenzio, per vedere qualcosa di più di Spacca il Silenzio, oltre a quello che abbiamo già proposto in questo questa trasmissione, basta collegarsi al loro sito www.spaccalsilenzio.it e lì si può accedere a quella che è la biografia, la discografia, un po' di galleria fotografica e dei video soprattutto di Spacca il Silenzio. Allora, questi video che ambientazioni hanno? Ma questi video altrettanto veri, la maggior parte sono delle registrazioni dal vivo, sono multi tour che ci vedono appunto in giro tra Italia ed estero. È stato in Russia, in Olanda, in Germania, in Svizzera. Sì, abbiamo fatto tantissime cose, tra l'altro tra qualche giorno ripartiremo, abbiamo una serie di concerti su in Olanda e anche in Svizzera. Ecco, tutto quello che riguarda la nostra attività concertistica basta veramente digitare su un qualsiasi motore di ricerca Spacca il Silenzio ed escono fuori sicuramente dei risultati. In alternativa, per chi volesse vedere appunto noi in movimento, in viaggio e in video, su YouTube basta fare /Spacca il Silenzio, c'è un canale proprio nostro che riporta una serie di videoclip, tutti montati, anzi la maggior parte montati appunto da mio fratello Feli, che è in Turchia adesso. Benissimo, quindi farà Turchia-Olanda direttamente, senza passare dall'Italia. Beato lui. Bene. Allora, ascolta Luigi, un altro pezzo acustico ce lo vuoi regalare? Sì, certo, ti faccio sentire questo pezzo che tra l'altro forse anche mi ricorda tantissimo mio fratello, la mia infanzia. Dunque, noi siamo meridionali, primissimo periodo degli anni 80, un terremoto in Irpinia, da dove per il 50% arrivo, visto che mio padre è irpino, e iniziano a nascere come funghi tutte quelle case che purtroppo dovevano essere ricostruite. Noi ragazzini ci lanciavamo all'interno di queste case per farle diventare delle case stregate, oppure trovavamo altri modi per divertirci e provare a guadagnare qualche lira all'epoca. Ricordo questo aneddoto di mio fratello che va insieme a degli amici a trafugare delle zucche in un orto di un contadino, il quale poi a un certo punto ci becca e per poco finivo al gabbio. Questo pezzo prende un po' spunto da quell'aneddoto lì di un po' di anni fa. Il nostro motto è lavorare invece di rubare, ma il nostro gruppo almeno una volta lo doveva fare, così nei guai noi siamo finiti. Ormai già ci hanno uccisi ed eccomi qui a raccontare una storia, perché sto nei guai ora. Gruppo sconvolto dai guai di una società moderna, gruppo sconvolto dai guai che sbattono giù per terra, è un gruppo di gente che sa come gira la terra, è un gruppo di amici che va a finire nella merda. Siamo condannati ad essere giudicati come dei ladri assassini, ladri di contadini, però sta cosa non è nostra, no, non è cosa nostra, siamo pronti ad essere giudicati, ad essere impiccati. Dai guai di una società moderna, gruppo sconvolto dai guai mi sbatton giù per terra, un gruppo di gente che sa come gira la terra, un gruppo di amici che va a finire nella merda. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Il pezzo che ci siamo ascoltati in rigoroso silenzio, senza spaccarlo in questo caso. Vedi? Ma perché solitamente sì. Tutti pensano, quando davvero molti, magari, ma non tutti chiaramente, però molti pensano, dice, questi qui si chiamano Spacca il Silenzio, secondo me faranno un casino. Allora, la nostra scommessa è proprio quella di, in maniera trasversale, visitare il panorama musicale più vario, cioè nel senso che poi, tra l'altro, voi che siete la radio, che io che musica faccio? Cioè, me la sapreste dire? No. Io faccio quello che mi piace, certo. Capito? Posso veramente utilizzare il linguaggio dello swing, tanto come quello del rap o quello della canzone d'autore più italiana. Una musica possibile. Senza etichette, trasversale, si potrebbe dire, che va, sì. Una specie di crossover, ecco, della ecco. Musica. Sì, sì, insomma, chi vuole sapere le ultime novità, insomma, deve seguirci, non sanno mai. Bene. Allora, Gruppo Sconvolto, si intitolavo così, non era senz'altro il gruppo formato dai tre, quindi gli Spacca no, il Silenzio, ma era proprio, come dicevamo prima, la storia d'infanzia. Eravamo dei ragazzini e mi ricordo che tra l'altro ci fu questo trafugare di zucche, che dalle nostre parti si chiamano le cocozze. Praticamente poi a un certo punto cosa succede? Che mio fratello e gli altri intagliano queste zucche a mo' di Halloween e le piazzano lungo una stradina che era un vicoletto cieco, dove tra l'altro mio padre con noi si era praticamente messo a cucinare dei panini, cioè l'idea era quella di vendere panini con un vicoletto arredato con queste zucche illuminate dal cielo. Cosa succede? Che passa il contadino e vede le sue zucche, le riconosce, perché tra l'altro ce n'era una enorme che praticamente era l'unica che poteva essere subito riconoscibile. Sì, che le sorrideva in questa maniera veramente molto molto schernosa, diremo. Sì. E però che chiaramente la cosa ha suscitato tutta una serie di polemiche, di problematiche che veramente non erano sicuramente semplici da districare. Quindi nasce questo brano che poi, certo. Sai, come tutte le canzoni poi non necessariamente le abbandoni, cioè, ci avrò avuto 15 anni quando ho scritto il testo di questo brano, però ancora oggi durante i concerti mi piace suonarlo. Certo, un consiglio? Manda un disco a quel contadino che... Non so nemmeno se sia ancora vivo, mi auguro di sì, chiaramente. Sì, certo. Ma sì, potrebbe essere un'idea, quella di perlomeno di andare via di loro, sai che comunque... Perché dire, guardate, questo è il periodo quando eravamo fuori di zucca anche noi. È vero. Bene. Allora, Spacca il Silenzio, ricordiamo ancora il... CD, il titolo del CD, incisioni fonomeccaniche elaborate durante i concerti di, vogliamo ricordare nel finale quelli che sono stati i posti che vi hanno ospitato a Bologna, Arteria, sì, poi Policoro, l'Absolute Café, poi ancora Perugia, Loop Café, alla Spezia, Origami, Circolo Arci, Asti, il Diavolo Rosso, a Napoli, Mamma Mu Bar, poi ancora Pisa, X Wide, a Benevento, Morgana Music Club. Allora, che dire, Spacca il Silenzio, Luigi Grella, è stato un vero piacere averti con noi. Porta ancora i saluti anche a Feliciano e Cristiano, che abbiamo avuto il piacere di sentire prima in una seppur breve conversazione telefonica, quindi tornate presto a trovarci con le vostre nuove produzioni fonomeccaniche. Sì. Mi auguro proprio di sì. Tra l'altro siamo in tiratura d'arrivo stiamo imbastendo un nuovo singolo. Uscirà, prima o poi uscirà, e ci saranno delle sorprese a riguardo. Insomma, seguiteci sempre. Benissimo, allora prima di salutarci, Luigi, un breve cappello su quella che è la canzone che andremo ad ascoltare da CD, che si intitola Contro, che serve anche per salutarci. Sì, dunque, il mio modo di interpretare alcune sanzioni che il Vaticano ci mette in faccia, un po' interdetto dall'ipocrisia di paese e da una serie di cose che non mi stavano molto molto comode. Ecco, questa è brevemente quello che si voleva dire all'interno della canzone Contro. Benissimo, allora per saperne di più ricordiamo ancora una volta spaccailsilenzio.it, questo sito internet. Ricordiamo che questa trasmissione, oltre che essercela goduta in diretta, potremo anche riascoltarla accedendo ai nostri archivi sonori, quindi all'interno di bluradioveneto.it, dove prima c'era l'ascolta diretta audio degli Spacca il Silenzio, c'è appunto lo spazio per cliccare per riascoltare la registrazione di questa trasmissione. In più ci sarà il link dedicato a quelle che sono alcune delle foto scattate durante questa trasmissione. Allora, ancora grazie a Luigi Grella, grazie agli Spacca il Silenzio, buon rientro nella vostra ormai cara Bologna, e ci sentiamo insieme questa Contro. E allora noi salutiamo ancora Luigi, ciao, buon rientro, arrivederci presto. E da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara il solito grande caloroso ciao, ancora una volta buona musica, più tardi ci sarà Alberto Prisco, la classifica Rock Wave. Blu Radio Veneto rimane sempre con voi, grazie ancora, ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti, ha suonato Cristiano Delfino, la batteria, Feliciano Grella, il basso. Litigare, cercate guerre sane. sono un protestante, sono un tipo sano dall'animo legale. Ma adesso voi capite qual è la mia opinione e cosa poi mi spinge davanti all'obiezione. E allora quale flag della discordia, Dio grida pace, ma che silenzio. Blu Radio Veneto, dai colore alle tue frequenze. Blu Radio.